radioarchimede.it. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. Ok, tra i colori della cultura pop di cui parliamo sempre su queste frequenze c'è la fantascienza di Star Wars, della sigla, e la fantascienza di cui parliamo oggi con Paolo Ferrara e Silvano Beltramo. Ciao Paolo, ciao Silvano. Ciao a tutti. È una puntata particolare questa, anche per una serie di ragioni, e tra cui il fatto che Paolo sei anche conduttore di Sono Cose Serie, che è l'altro podcast, uno degli altri podcast sulla cultura pop, sul fumetto, che ha anche una storia un po' più lunga di questo, quindi io te lo riconosco, sei riuscito a fare anche delle cose molto fighe, tipo avere gli endorsement dei doppiatori che sono fighissimi, tipo quello col dottore. Sì, beh, li abbiamo un progetto che stiamo portando avanti da un po' di tempo. Da un po' di tempo per motivi tecnici, nel senso che il grosso è stato concluso, siamo alle ultime cose, speriamo che arrivi presto. Comunque Sono Cose Serie, dedicato a tutto ciò che è seriale, questa remissione che ormai è arrivata alla sesta stagione, sono sei anni. E infatti avevo visto che era numerato, tra l'altro vuoi anche dire il sito, che adesso non mi ricordo? Sì, allora, potete ascoltarla www.radiohome.it. Noi siamo in diretta domani sera, tutti i mercoledì dalle 19 alle 20, oppure in podcast. Noi siamo sia su www.radiohome.it che su www.sonocoseserie.it. Tanto perché in puro spirito sharing economy, visto poi comunque è bello questi scambi, queste possibilità, in questo caso oggi Paolo sei qui in realtà in veste come sceneggiatore del progetto Evo Z, che chi ci guarda in webcam vede, è disegnato da Silvano Beltramo. Eccolo. che tra l'altro a tempo di record ha già fatto due sketch sull'albo. In realtà è un progetto che nasce principalmente per il web, infatti notavo, stavo criticando, ero subito lì che dire tutto sto testo, però c'è un motivo per cui c'è tanto testo. Il progetto è nato per il web, nel senso che Evo Z esce regolarmente una volta a settimana, tutti i lunedì, sul sito www.macchemodels.com e poi di rimbalzo sui social, quindi Facebook, eccetera, eccetera. Ed esce una tavola a settimana. Mm-hmm. Quindi la tavola deve avere un minimo di suo senso compiuto, anche se ovviamente uscendo una serie, il suo scopo principale è avere il cliffhangerino alla fine che ti spinge ad andare avanti ad aspettare il prossimo episodio, però deve avere il suo senso compiuto. Infatti questa versione cartacea che abbiamo qui, che è stata realizzata in versione limitatissima per una mostra delle macchine di Germanium Pack, che è quello che ha creato tutti i veicoli e le armi, che è un modellista torinese, è stato strano per noi rivederlo e leggerlo in sequenza immediata, perché tra una tavola e l'altra noi siamo abituati cambiava a pensare tutto. Una settimana di distanza, e quindi c'è proprio una struttura, un approccio all'effetto narrativo completamente diverso. Esatto, una costruzione narrativa diversa. Silvano, ti chiedo però di dirmi come nasce il progetto, e a monte ci sono i modelli di Germanium Pack. Esatto, praticamente io conosco German da 20 anni, lo ammiro anche come artista, perché comunque riesce a tra le ricostruzioni di astronavi famose, i modelli originali, insomma è un grande passato di fantascienza e riesce a costruire dei modelli veramente bellissimi. Mi ha contattato quest'anno a febbraio chiedendomi di fare qualcosa insieme, quindi voleva che il suo mondo di fantascienza, il suo mondo di creatività fosse in qualche modo unito al mondo del fumetto, quindi vedere anche i suoi lavori trasformati in disegno. Gli piaceva questa idea. All'inizio si pensava di fare delle illustrazioni anche soltanto per le scatole di vendita dei suoi prodotti. Poi io ho proposto invece, perché non facciamo una serie dove usiamo un canovaccio di fantascienza, quindi mi posso divertire molto a disegnarla, però usiamo tutte le tue creazioni all'interno della storia come proprio forza narrante, quindi tutti i suoi mezzi, le armi e così via. Ho contattato il buon Paolo, perché lo conoscevo già per altre cose che avevamo iniziato a fare insieme come sceneggiatore e disegnatore. Gli ho proposto l'idea via mail, ho scritto due idee, io ho detto guarda ti piacerebbe, dopo 30 secondi mi ha risposto sì, mi piace tutto, facciamolo, anche perché gli ho dato come parola chiave una cosa che era Mago di Oz. Lui, quelle sinergie strane cosmiche, lui ha capito perfettamente cosa intendessi, e infatti Evo Z, possiamo anche anticiparlo, non roviniamo la sorpresa per quelli che ci ascoltano, così poi vogliono comprare l'albo e vedere le analogie, è una sorta di mago di Oz fantascientifico, anche dal titolo Evo Z, evoluzione Oz, quindi okay. Ci sono alcuni personaggi che sono quelli del mago di Oz completamente trasformati, però il canovaccio, l'idea di fondo è questa povera Dorothy, che nel nostro caso si chiama Tai, che deve scappare e trova tre personaggi che l'aiutano perché ha combinato un po' di disastri nell'arrivo, diciamo, in questa galassia di questo mondo. Ok, Paolo c'è molto artigianato nel costruire una storia a partire da dei modelli, da una serie di paletti, però è la parte divertente costruire qualcosa attorno a qualcos'altro. Assolutamente sì, adesso escluso il fatto che questo lavoro l'ho fatto io, eccetera, però una cosa che ho sempre amato negli autori di cui leggo, mm-hmm, è proprio la capacità, se secondo me un autore è bravo quando dimostra di essere in grado di fare una storia interessante, una storia piacevole, proprio dentro i paletti. Cioè, okay, è facile scrivere una bella storia come cavolo mi pare a me, okay, ma se io riesco a scriverti una storia interessante, per esempio su un personaggio come Superman, che è uno dei supereroi con i paletti peggiori che si possono avere perché c'ha tutto, esatto, se riesco a scrivere una storia interessante, allora sono veramente un bravo scrittore, e quindi a me questa cosa ha sempre affascinato, mi diverto molto se devo confrontarmi. Beh sì, c'è sicuramente la necessità di costruire, ma anche di stimolare più la materia grigia. Sì, lo spunto che ti ha colpito invece dal punto di vista grafico, dal punto di vista, cos'è che potevi costruire come disegnatore Silvano, ma attorno, allora, a questo? Sicuramente l'idea di poter inventare un mondo da zero è... Okay. Divertente. Suggestivo. È suggestivo, perché comunque appunto i mezzi sono quelli di German, le armi anche, però tutto il resto è stato okay, ideato da me. Cercare di rendere questo anche nei colori, che ho cercato di rendere un po' più carichi, un po' più brillanti, questa idea molto come il film degli anni 30, questa idea molto colorata di questo mondo, okay, però questo mix anche di fantascienza anche un pochettino classica, insomma, quindi un gusto un po' classico della fantascienza, che poi forse è più nelle mie corde come autore, anche generazionalmente magari sono le cose che riesco, da lettore mi sono sempre piaciute un po' di più. Ma quindi se dovessi dire fantascienza letteraria, fantascienza cinematografica classica, Star Wars, Star Trek, bella domanda, un po' di tutto. Forse c'è, ma forse allora nella costruzione dei personaggi, le razze aliene eccetera, c'è sicuramente molto anche di Guerre Stellari. Io lo chiamo Guerre Stellari, non sì, riesco beh, automaticamente a chiamarlo Star Wars, questo dimostra la mia età anagrafica non giovanissima. Per noi è ancora Guerre Stellari. Guerre Stellari, mi viene automatico. No, allora, quello sicuramente è stato importante. Poi mi sono guardato anche molto del fumetto, illustratori comunque che hanno lavorato per il cinema, perché credevo, mm-hmm, che fosse una buona punto di partenza, ma anche sicuramente Star Trek, già il fatto che ci sono tantissime razze aliene messo in queste prime 20 tavole, il primo albo che abbiamo autoprodotto per questa mostra, appunto 50 copie numerate, che è quasi in esaurimento, sì, infatti faremo ancora un incontro questo sabato sì, qua a Torino, faccio un po' di autopromozione, certo, siamo qui ci troverete dalle 16 in poi fino a esaurimento copie presso la fumetteria Sturiellette in via di Nanni mi pare 80 qua a Torino, e presenteremo appunto il progetto, abbiamo le nostre copie, disegni per tutti, firme per tutti, ci conoscerete, insomma speriamo che piaccia. Venite a trovarci. Paolo, farai come Silvano 15 minuti fa, che Silvano ha fatto grosso del lavoro e tu hai messo la firma, giusto? Lo scrittore è così, se volete faccio un disegno, ma penso che preferite quello che fa lui, forse meglio, scelte a volte, poi ci sono anche grandi sceneggiatori che sono anche grandi disegnatori, tipo sì, Frank Miller, che poi però a volte scelgono anche di affidare a qualcun altro, sì, i propri testi. Ci sono anche sceneggiatori che hanno cominciato da disegnatori. Brian Michael Bendis ha cominciato anche come disegnatore. Alfredo Castelli. Poi si sono rotti le scatole, sì, perché è più faticoso, credo, disegnare che scrivere. Beh, vi sorprenderò, due puntate fa su queste frequenze Pasquale Ruglio ha detto che anche lui all'inizio la scansione narrativa se la dava disegnando, poi essendo diventato un professionista ha lasciato da parte totalmente la parte di disegno, però di per sé, ma penso che di per sé al momento in cui uno vuole scrivere fumetti deve avere un'idea, sì, grafica, ma io penso... devi avere un approccio comunque visivo a raccontare, se sì, non riesci assolutamente a... Infatti io disegno ma non scrivo, perché non voglio neanche tentare, so che c'è gente più brava di me, quindi sono partito direttamente da disegnatore e mi sono fermato lì. Comunque questo primo albetto raccoglie le prime 20 tavole, quindi la prima metà del primo ciclo narrativo, la nostra, sì, idea di fare tre cicli, quindi tre storie lunghe da 40 tavole. Mm-hmm. Finirà questa primavera, perché appunto le stesse tavole le trovate pubblicate su internet appunto, settimanalmente. Quindi qui raccogliamo le prime 20 tavole, ovviamente nella versione cartacea rivedute e corrette. Sì, ci sono alcune piccole differenze. Piccole differenze nel disegno, modifiche, perché ovviamente l'idea di lavorare una tavola alla settimana ci ha portato anche a essere sempre molto a ridosso dell'uscita. Quindi poi a mente fredda abbiamo cercato un po' di sistemare le cose, perché sono appunto la tavola settimanale su internet ha un senso, su carta, come diceva Paolo, è un altro discorso. Vabbè, come George Lucas che continua a mettere le mani. Sì. Adesso smetterà di mettere le mani sul... Però quella di George Lucas invece secondo me è qualche anticipo di demenza segnata. Ma adesso si lamenta persino, questo è uscito, si lamenta, lui ha portato via il pallone, non mi farò più giocare, ve lo buco il pallone. Esatto. Ma non gliel'hanno portato via il pallone, gliel'hanno pagato per bene, molto molto bene. Poi di per sé, dal punto di vista di immaginario, era quasi un percorso obbligato che andasse a finire alla Disney per tutto un utilizzo, come stanno facendo un utilizzo del multiverso Marvel, anche il multiverso di Star Wars, come storie da raccontare, ce n'è tanto e vedremo. È difficile darsi un ritmo, Paolo, e scrivere una tavola alla settimana che sia autoconclusiva, che sia cercando di portare avanti una narrazione e al tempo stesso cercando di dargli sempre il motivo per leggere anche la successiva? Allora, non è facile soprattutto sulla fantascienza, perché la fantascienza, soprattutto nel momento in cui ti stai ambientando in un mondo nuovo che stai inventando, che hai inventato col disegnatore, eccetera, devi spiegare un sacco di cose. Perché devi determinare le regole, devi far capire le varie razze aliene, cosa sono, chi sono, cosa sanno fare. E questo è abbastanza complesso, soprattutto perché devi equilibrare molto bene quello che è il racconto, quindi deve succedere qualcosa in questa tavola, altrimenti non è appassionante, esatto. Però allo stesso tempo devi anche spiegare un sacco di cose e dosare due cose. Io spero di essere riuscito a fare delle cose con un buon dosaggio, perché è sicuramente la cosa più difficile. Ok, quindi Silvano gli perdoni queste vignette a 10 tavole, queste tavole a 10 vignette. Allora, adesso che siamo oltre la metà della storia, inizio a capire il mio sceneggiatore. Prima dicevi, chissà questo disgraziato dove vuole andare a parare. Mi sono un po' lamentato, ovviamente, perché c'è tanto da disegnare, tanto testo, ma no, vabbè, giustamente la tavola autoconclusiva settimanale deve avere una sua inizio e chiusura, deve essere coerente, quindi è difficile. Poi mettendo molta carne al fuoco c'è questo discorso. La cosa divertente del progetto è che Paolo, ovviamente siamo parlati, so più o meno dove andremo a parare con la fine della storia, ma io leggo le tavole praticamente mentre le disegno, quindi anch'io non so cosa succede la settimana prossima. Io adesso dovrò disegnare la tavola di lunedì, non l'ho ancora iniziata, devo ancora leggermi la sceneggiatura, quindi per me è una sorpresa, è un modo di lavorare proprio all'americana, tipo le tavole domenicali o le strisce giornaliere che c'erano negli anni 30 e 40, un modo modernissimo, ma anche antico, perché è modernissimo che siamo sul web, ma antico perché è un modo diverso rispetto alla serializzazione della Bonelli che ti fa le 90 e passa pagine, o degli americani, comunque hai la sceneggiatura delle 20 e te la gestisci tu. Qui è un lavoro così. E questo non l'avevamo detto prima, una delle fonti di ispirazione è proprio quella dell'idea della vecchia tavola domenicale che era il canone per la fantascienza fumetti, quando più o meno il fumetto è nato, o comunque era nato da poco, i Flash Gordon, Alex Raymond e via dicendo, che realizzavano queste cose. E magari cose... in quel caso lì era addirittura una striscia, cioè ho visto certe cose di Jeff Hawk, erano solo strisce. Sì, perché lui tre era vignette giornaliero, perché sul giornale era un po' quello che succedeva allora. Anche su alcuni Peanuts. Giornali avevi la striscia giornaliera, che è quello che succedeva con Peanuts, Calvin Hobbes, eccetera, e la domenica avevi tutta la tavola. Quindi era... L'altra cosa, cioè, pensa alla difficoltà, tu dicevi la necessità di costruire un mondo nelle strisce, tre vignette sì. E infatti quelle per la fantascienza, cioè un conto sai sono le strip alla Peanuts eccetera, dove hai una gag, nella fantascienza ci voleva un quasi sempre, infatti credo che ci fosse quasi sempre un riassunto, c'era una quarta vignetta in cui in realtà ti diceva cosa qui siamo successo. Riusciti a non metterlo fino al riassunto, anche se ogni tanto lo infilo, c'è un modo. Però quindi niente previously on per ora no. La cosa che mi piace, la cosa che mi diverte di più di questo meccanismo della singola tavola è ogni volta spaccarmi la testa sul colpo di scena alla fine della tavola, perché ogni tavola deve finire con a volte un po' più forte, a volte un po' meno, però comunque ci deve essere sempre un colpo di scena finale. Ogni volta riuscire a trovare qualcosa che comunque non hai già fatto, che comunque possa avere un effetto. Di alcuni devo dire sono molto, sì, molto contento. Ma anche la prima tavola parte già con un bel punto esclamativo finale e anche interrogativo, e dici: ma cosa diavolo sta succedendo? Però andate a vederla su internet se non volete venirci a trovare sabato, così vedete l'effetto. No, è divertente. L'unica critica che ci ha fatto il nostro terzo, quindi German, l'autore. Salutiamo se per caso ci stesse sentendo in streaming. L'unico motivo perché non ho invitato tutti e tre, perché diventava un po'. Sì. A parte che i microfoni sono tre, e poi sì, diventa un po' caotico. Però sarebbe divertente una volta se anche German volesse. Esatto, potremmo rifare. Assolutamente. Esatto. Perché ha un'esperienza. Tra l'altro, adesso sta lavorando anche lui per il cinema. Ha fatto gli effetti speciali, cioè i modelli che sono stati utilizzati per un film di Luis Nero, sì, Broken Key, che deve uscire, quindi ho visto le sue creazioni, è interessante. Tra l'altro, per farvi capire come lavora German, lui lavora soprattutto con materiali di recupero. Lui ha realizzato un satellite per questo film, che è il satellite delle comunicazioni di questo... c'è anche un po' di fantascienza, sì, in questo film, non è prettamente fantascientifico, ma c'è qualche elemento, partendo da un tubo di scarico delle fogne, un tubo da fognatura, sì, cioè una porzione. Esatto. Lui ha preso questo enorme tubo e in 2 settimane, 3 settimane l'ho trasformato in un satellite. Che poi digitalmente è stato inserito il modellino, come la fantascienza degli anni 70, si usavano ancora i modellini. Adesso si ritorna, anche il nuovo Guerre Stellari hanno utilizzato molto i modellini, sì, a differenza degli ultimi che erano tutti in digitale. Hanno fatto questo mix digitale più modelli che sembra veramente molto più caldo, molto più interessante anche visivamente. Quindi poi per un progetto italiano, quindi esatto. Ma sì, poi di per sé il fatto stesso di avere poter usare anche gli effetti speciali, tutti gli strumenti espressivi, forse è stato Michel Gondry che era più autore a cominciare, sì, a rimettere, a ributtare dentro delle cose analogiche. Uno di quelli veramente bravi che ama fare il gioco del mix in questo senso è Guillermo del Toro, che in tutti i suoi film ama utilizzare il digitale come corredo all'effetto speciale canonico. Ok, e quindi diciamolo bene, cari apocalittici digitali, non funziona così, un po' e un po'. Poi comunque per ogni personaggio digitale c'è un animatore o più di un, anzi tanti animatori che lavorano, quindi tutto il cinema, il linguaggio audiovisivo sono strumenti espressivi, quindi cambiano, e poi a seconda l'importante è che ci siano, crescano degli autori che poi sappiano usare anche in un contesto industriale, commerciale, internazionale come quello di Hollywood, saper utilizzare questi strumenti. Ma allora in questo caso apro una piccola parentesi, okay, perché abbiamo una realtà tutta italiana che sta crescendo tantissimo, di Roma, conosco personalmente alcuni dei ragazzi, si chiama Machinarium, che adesso ha dato vita alle creature del Racconto dei Racconti, l'ultimo film di Garrone. Loro sono bravissimi, io ho avuto la fortuna di passare da Roma ed andare a trovarli nello studio l'anno scorso, quando ancora non potevano parlare, ma ho visto le creature, mi hanno ovviamente chiesto non dire, non fare foto, ma ho visto in anteprima alcune delle creature che stavano costruendo per il film, e ce n'era una che era in un hangar, nel senso che una delle bestie è veramente grossa, penso che sia quasi in scala 1-1, e loro utilizzano, ha un approccio classico, nel senso siamo ancora alla realizzazione della creatura, del pupazzo, eccetera, ma con tecniche moderne. Leonardo Cruciano, che è uno dei capi, diciamo, uno dei principali di questa realtà, è tra le altre cose un esperto di materiali, quindi loro studiano anche leghe chimiche, leghe plastiche, cioè le creano appositamente per ottenere il risultato migliore nella creatura che vanno a realizzare. Io mi ricordo all'epoca, prima ancora che fosse Machinarium, si chiamava in un altro modo eccetera, lui andava in giro con questa cosa che io adoravo, che la chiamava la valigetta del ghiaccio. Era una cosa che usava di rappresentanza anche quando andava a cercare lavori con le varie realtà, dove aveva queste vari ghiacci in varie forme, che poteva essere dal cubetto di ghiaccio, per esempio nella pubblicità da utilizzare, che poteva essere il cubetto di ghiaccio fatto apposta per rimanere a galleggiare, quello fatto apposta per sciogliersi, quello fatto apposta per rimanere a metà del liquido in cui veniva inserito, oppure tutte le strumentazioni per fingere la glaciazione, quindi prendo un oggetto e faccio in modo che sembri congelato, quindi tutta una serie di cose da utilizzare. Infatti l'artigianalità okay. è fondamentale alla fine. Quindi. Continuiamo dopo la prima canzone il discorso sugli effetti speciali, anche perché si apre tutto un mondo, un universo, e dimostreremo, come stiamo già dimostrando su queste frequenze con tanti bravi autori, che anche tanta tecnologia, anche tante possibilità ci sono anche in Italia, poi a volte manca l'industria dell'intrattenimento in grado di assorbirle. I soldi, tecnicamente. Sì, però io l'avevo detto in una maniera un po' più figa, dai. Io un po' più terra terra. Dai, prima canzone, dobbiamo essere un po' pacifici di questi tempi, quindi un pezzo di una band in cui il videoclip c'era un tizio che andava in giro a abbracciare la gente. Dave Matthews Band, Everyday. Everyday, left to right, up and down, love, push up, love. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E questa settimana abbiamo una puntata pacifica come musica, come anche vedremo, ma molto fantascientifica sul fronte contenutistico, grazie a Paolo Ferrara e Silvano Beltramo, che presentano, e poi parleremo anche d'altro, ma presentano in particolare questo progetto Evo Z. Mago di Oz in salsa sci-fi. Sì, ci sono tantissimi rimandi, infatti sono curioso, poi in realtà pubblicamente lo sveleremo quando sarà finita questo primo ciclo, e a quel punto vorrei vedere se qualcuno ha colto tutti i vari riferimenti che sono stati inseriti, seminati nella, è più un gioco nostro, perché ovviamente la storia ricorda alcuni passaggi, però è autonoma. I passaggi chiave, giocato sui passaggi chiave. Esatto. Poi di Oz, e ovviamente sui personaggi. Ok, poi comunque scrivendo fantascienza, immagino che Paolo, anche come avendo per bagaglio tuo un certo tipo di letture, hai a che fare con una serie di capisaldi e devi cercare di o li citi o ti allontani, però hai due scelte. Sì. Beh, il gioco lì si va sempre su una linea di confine. A me piace molto il gioco dell'omaggio. Okay. Però il gioco dell'omaggio è molto rischioso, perché poi il confine con plagio, copia è sempre lì. Io in questo caso l'omaggio è sempre un po' travestito, nel senso che mi sono divertito più che altro a seminare dettagli, giochi, rimandi, non ci sono citazioni esplicite. Perché di per sé la citazione esplicita probabilmente inficia la narrazione, quindi forse quello che volete costruire è una narrazione che cattura l'interesse. Poi è chiaro che... Diciamo una sorta di reinterpretazione, se vogliamo. Esatto, assolutamente. Una cosa importante che ci stiamo dimenticando, ma l'altro componente del team per Evo Z, quindi oltre a Paolo, me e German, è sicuramente un ringraziamento a Barbara, nome d'arte è Barbara G. Tarn, che è ringraziata, che è la persona che ci ha permesso di uscire anche con la versione inglese. Sì, perché sia in italiano che in inglese. Infatti, quando abbiamo pensato al progetto, da subito ci siamo resi conto che uscire solo come webcomic in Italia poteva essere limitante, anche per quello che pensavamo noi di questo progetto. Quindi abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con lei e ci ha fatto un adattamento per l'inglese assolutamente ottimo. Infatti è bello vedere la propria realizzazione anche in una lingua diversa. E quindi abbiamo avuto molti contatti, molti riscontri anche dall'estero, perché avendo la versione in inglese, bilingue tutti i lunedì, e quindi grazie a Barbara. Sono interessanti sinergie che si creano. Barbara è una scrittrice. Indie publisher, lei si definisce come l'ultima versione, che è chi direttamente pubblica i propri romanzi e racconti direttamente su Amazon. E si usufruisce, credo che sia così che è nata la collaborazione, di vari copertinisti, anche di vari editor, ma di vari copertinisti, tra cui ci sei tu, Silvano, più di uno, 4-5 almeno i suoi... Sì, stanno uscendo man mano, la prossima copertina uscirà credo in primavera, che ho fatto per lei, quindi sì, ci siamo conosciuti così, amicizie comuni, quindi questa collaborazione è stata molto bella, perché insomma ci siamo trovati a metà strada. Io ho bisogno nel team di una persona che sapesse bene l'inglese e scrive in inglese principalmente, mi conosceva come copertinista, e quindi perfetto, un matrimonio dal punto di vista lavorativo sta andando molto bene, insomma, nel pieno della sharing economy. Assolutamente l'altra faccia della medaglia, di solito una volta, soprattutto sul lavoro eccetera, il concetto di amicizie era un po' un discorso di quasi losco, invece adesso con queste nuove forme, queste nuove realtà, l'amicizia sul lavoro significa collaborazione, scambi, contatti, allargare la propria rete, quindi rimbalzi, anche perché uscendo in digitale, appunto, il passaparola digitale è fondamentale, quindi l'essere conosciuti su internet vuol dire insomma i contatti si creano grazie a questo passaparola, condivisioni eccetera, quindi un team di lavoro affiatato che porta avanti il progetto è utile al progetto stesso. È completamente diversa la modalità di messa sul mercato di un progetto del genere, Paolo? Esiste a un certo punto, deve esistere come tavolo singolo, deve esistere come progetto, come unicum? È complicato. Complicato. Infatti, allora, non nascondiamo, fin da subito ne parlavamo fuori onda, questo progetto ancora ha un'impostazione fumettistica, diciamo, canonica, classica, non specificatamente pensato su un supporto digitale, quindi la tavola con le vignette eccetera, anche perché fin da subito a noi piacerebbe pensarlo in un futuro cartaceo, come è successo per questa edizione limitata. Quindi EvoZ è anche alla ricerca di un partner, di un editore, editori, fatevi o avanti, editori per diventare poi in realtà un vero e proprio albo. In quel caso, a differenza di come è successo qui, come dicevamo prima, qua c'è stato qualche ritocchino. In una vera versione cartacea sicuramente il lavoro avrà qualche ritocco un po' più importante, sempre piccole cose, appunto per renderlo più sensato nel nuovo contenitore, perché a differenza di come pensano molti, il contenitore è molto importante anche su quello che è il risultato che ha sul contenuto. Cioè Paolo, ma se tu avessi il libro dei sogni, questo progetto EvoZ come sceneggiatore, qual è il formato ideale in cui lo vedresti? Lo vedresti in una serie interminabile come una serie TV, un ciclo, un unico graphic novel lungo? Se tu avessi la bacchetta magica e dici questa è la forma ideale nella mia testa per EvoZ, sarebbe una serie di 3 paperback, okay, all'americana, dove si raccoglie una serie che prima è stata serializzata, questa, okay, volta invece che in capitoli albetti come succede in America, okay, di 20 pagine, in episodi singoli, 3 che chissà potrebbero anche proseguire. E però poi ovviamente diciamo che il suo ciclo, ovviamente la realizzazione del film, il passo successivo, il parco tematico, il merchandising che ci farà diventare ricchi, questo stiamo aspettando, solo questo. Il merchandising, sì, ce l'abbiamo già ma non ci fa ancora diventare ricchi. Sì, è vero, è vero. Va ridiscussa questa fase. Ok, qual è stata l'impressione di German visto il fumetto fatto? Allora, German... Finalmente lo ha letto, che un passo sì avanti. Sì, perché anche lui gli son piaciuti i suoi mezzi all'interno di questo universo? Gli sono piaciuti, ha avuto solo un appunto da fare lo sceneggiatore, io infatti mi sono subito discolpato, non c'entravo niente. Molte volte i suoi mezzi fanno una brutta fine, essendo una storia di fantascienza esplodono, sì, esplosioni. Capita diciamo che ha un 80% dei mezzi che ho inserito nella storia di solito vengono distrutti nel giro della o la tavola stessa o quella successiva. Maledizione, ma chi sei? Michael Bay? Beh, un po' di esplosioni nella fantascienza. Esatto. La fantascienza però, senza esplosioni. Ripeto, ho una tavola per far succedere qualcosa. L'esplosione di solito è qualcosa. Ok. No, scherzi a parte, poi ci saranno veicoli che tornano. In realtà è perché poi siamo in una situazione molto roccambolesca. Ok. Quindi di conseguenza per sé o puoi fare sempre che tutti sparano tutti ma nessuno colpisce niente, che fa sempre un po' ridere come in certi western così, oppure però da qualche parte qualcosa esplode. Almeno questi sono veicoli militari, esatto, voglio dire, nei film, sì, americani 2500 che tamponano esplode. No, qui ha un po' più senso, diciamo, sì. Vabbè, lì c'è un po' di narrazione che si è evoluta attraverso convenzioni diverse, nel senso tutta una serie di treni che saltano via davanti a una macchina, vedi Super 8, sì, cose, sì, del genere, no? Questa è anche una cosa interessante da esplorare su come si sia evoluto il linguaggio blockbuster cinematografico. Parlavamo di Paletti, parlavamo di Superman. Silvano, tu che nelle tue, la DC Comics c'è nelle tue radici? Sicuramente, sì. La Marvel, la DC... Allora, da lettore ho avuto due grosse influenze, paradossalmente sembrano poco compatibili tra di loro, che sono i fumetti Disney degli anni 70, quindi essendo di quel periodo lì come data di nascita, sicuramente il Topolino degli anni 70 con i vari grandi autori, Romano Scarpa, Carpi, le ristampe di Barks e così via, e contemporaneamente anche questa influenza dei fumetti Marvel e DC che uscivano all'epoca, quindi l'editoriale Corno e la Cenisio e così via. Con Bruno Sarda ci siamo anche chiesti se fosse possibile che c'erano anche fumetti di Nembo Kid, cioè il proto Superman scritto da autori italiani. Sì, sì, era sì, così. Sì, ah, sì, ok. Sì. Ci sono stati sicuramente negli anni 60, anche perché mio padre, essendo un grande collezionista, li ha, uh-huh, e io li ho potuti leggere, le edizioni degli anni 60, c'erano delle storie di Superman, a quell'epoca forse si chiamava già Superman anche, okay, in Italia, scritte e disegnate da autori italiani, cosa che sta succedendo anche adesso, almeno è successa un paio d'anni fa con delle storie, mi pare, pubblicate per il Giornalino, scritte e disegnate da autori italiani, tra l'altro, storie dell'Uomo Ragno disegnate da Dante Bastianoni, tanto per dire. Sì, sì, sì. cose un po' particolari, ovviamente per un target un po' diverso. Lì era l'epoca, addirittura era la Mondadori che pubblicava ancora negli anni 60 Superman, quindi prima della Cenisio. E se ben ricordo, spero di non sbagliarmi, e c'erano queste storie sicuramente fatte da autori italiani, ovviamente non c'erano i credit, però certo, lo stile, e poi si è scoperto questa specie di piccolo aneddoto così. Okay. Quindi continuiamo a parlare poi di influenze fumettistiche e cinematografiche, però siamo arrivati negli anni 70, volevo fermarmi negli anni 70 perché ho fatto una playlist e dovremmo essere nel 70 esatto, sempre canzoni pacifiche perché c'è stato un po' troppo casino di questi temi in giro di questi giorni, e quindi Led Zeppelin, ma non i Led Zeppelin che pensate voi. L'album è il quarto, quello uscito senza niente, solo i quattro simboli. Credo che sia il 70. Credo che ci sia Sandy Denny dei Fairport Convention che canta con Robert Plant. Il pezzo è The Battle of Evermore. Thank you. sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Sono solo nuvolette, oggi più che mai sci-fi. Anche grazie, no, non anche grazie, soprattutto grazie alla presenza come ospiti di Silvano Beltramo e Paolo Ferrara, autori di Evo Z. Abbiamo toccato però parte della carriera solista, visto che adesso dividiamo il team, parte della carriera solista di Silvano come illustratore, come copertinista di Barbara Gitarn, indie publisher, autrice che pubblica in Italia e sul mercato internazionale anche in inglese. E Paolo, però, invece, tu hai di recente pubblicazione anche un racconto, romanzo breve, forse racconto, più racconto, sì, molto bello. Che è appena pubblicato per un piccolo editore, si intitola Il candidato ideale. Sì, perché ho l'impressione Epica Edizioni, ok. Ci sono delle coordinate, un sito, qualcosa da Epica Edizioni, dopo il prossimo stacco te lo do. Poi controlliamo. A memoria non mi ricordo .it.com. E il candidato ideale, chissà perché, vabbè, io in realtà ho avuto la possibilità di darci un'occhiata, ma chissà perché ho idea che ha a che fare in modo semiserio con il mondo del lavoro, sbaglio? Semiserio, allora tragicomico? C'è poco comico in realtà. In realtà è un racconto pulp con qualche venatura horror, okay. Che è ambientato nel mondo dei colloqui di lavoro. Ok. Visto che ho una grande esperienza in campo da ormai diversi anni, e è più appunto un piccolo racconto che fa parte di questa collana I 40, e ho avuto il piacere di essere in collana con altre persone molto molto interessanti. Vi consiglio di dare un'occhiata al catalogo di Epica Edizioni, e i volumi sono tutti in cartaceo e in versione ebook, quindi si possono acquistare in entrambi i modi, non solo sul sito di Epica, ma sono ovviamente in distribuzione su tutti i canali canonici, da Amazon, Book Republic, eccetera. Qualunque sito venda sia ebook che libri vi permette di... E come scrittore non hai da far tribolare un disegnatore a cui dai 12 vignette a tavola, no, quindi... No, lì sono solo io che faccio tribolare me stesso. Ok. E questo è in realtà la mia terza uscita... soprattutto in versione digitale. Le prime due cose erano in digitale, le prime due purtroppo per due editori sempre piccini chiusi e quindi non più disponibili. Sempre uno era un progetto strano, diciamo vicino al mondo del fumetto, perché era quello su cui ci siamo conosciuti artisticamente con Maschere, con Silvano. Si chiamava Maschere, era un ibrido strano, nel senso che era una storia seriale. L'idea con l'editore era di recuperare un pochino il vecchio mondo dei pulp, okay. Che erano queste edizioni che uscivano periodiche a un prezzo molto popolare, che è poi quel tipo di edizioni che ha dato vita a anche personaggi fumettistici come quelli americani, da The Shadow, Batman stesso e via dicendo, agli italiani Diabolik nasce anche lì su quel filone. Sì, sì, su queste frequenze parliamo spesso di come il pulp sia un po' il magma primordiale per il fumetto, oppure non ci sarebbe Tex, non ci sarebbe tanto fumetto italiano senza Salgari. Esatto, e io allora, visto che il digitale si presta, avevo pensato di recuperare un po' questo meccanismo, quindi episodi che sarebbero usciti. Il progetto iniziale erano una volta ogni 15 giorni, una storia che aveva come per Evo Z un primo arco narrativo, e nel frattempo ero partito a contattare alcuni disegnatori perché il mio progetto era di far uscire in parallelo una serie di storie brevi a fumetti ambientate nello stesso universo di Maschere, che era un universo comunque supereroistico. Però poi appunto l'editore purtroppo è chiuso, quindi il progetto è rimasto solo parzialmente pubblicato. Sono usciti, mi pare, 8 episodi della versione narrativa e non c'è stato modo di far uscire poi quelli a fumetti, anche se il progetto per quanto mi riguarda non è morto, sto ancora cercando. Silvano, avevi già disegnato strada. Qualche tavolo o solo sketch di personaggi? No, lui era già a metà del erano comunque brevi pensate sulla lunghezza dell'albo americano. Ok. Mi ero fermato nella versione in bianco e nero, infatti La differenza grossa tra Evo Z e Maschere, che appunto ho iniziato a disegnare, appunto è arrivato a tavola 10, mi pare. Sì, una cosa del genere. Metà. E sono lì che aspettano di essere concluse. Che in Evo Z mi sono anche inventato colorista, che non è proprio il mio lavoro, ed è la cosa che mi ha più spaventato paradossalmente del progetto, più addirittura dell'uscita fissa ogni settimana, che abbiamo cercato comunque di mantenere, tranne il mese estivo di agosto, che abbiamo detto prendiamoci anche vacanza, noi sì, un mese di vacanza. In realtà da Torino Comics, dove abbiamo presentato il progetto, quindi questo aprile, una settimana con colore e tutto il resto. Quindi è stato anche un ascoltatore che mi correggerà al 71, effettivamente. Battle of Evermore. Ah, ecco. Vabbè. Vedi. Chissà se ma era davvero Sandy Denny, perché questa è l'altra cosa da verificare. In merito a questa cosa della settimana, del colorista, eccetera, ci terrei a sottolineare il fatto che abbiamo potuto portare avanti un progetto come Evo Z in questo modo soprattutto perché Silvano è molto veloce. Molto veloce inteso bravo e veloce, perché uno può essere molto veloce e basta. Grazie. E riesce a fare delle cose veramente in tempi molto stretti. Soprattutto questa cosa del colorista è stata bizzarro, perché a un certo punto mi dice, avevamo cominciato pensando in bianco e nero, perché ovviamente per questioni di tempistiche eccetera, poi Silvano mi contatta e mi fa: ma senti, sai, più disegno sta cosa, più questa cosa secondo me c'ha bisogno del colore, io voglio provare. Io prego, vada fai sì, quello che io speravo lui mi dicesse: ma no, te lo coloro io. Ma non è successo. E lui ha detto: guarda, ho trovato un tutorial, mo vedo, lo provo. Questo si è fatto un tutorial, una settimana dopo mi ha consegnato le prime due tavole colorate. Sì, era un tutorial di un colorista della Image, quindi in inglese, con video, è stato molto dettagliato, molto utile, mi ha fatto capire delle cose sul colore, è stato anche per la mia crescita personale e professionale, è stato rispetto a quello che diceva prima, seppure io trovo che già le prime tavole siano molto molto belle anche come colori, devo dire che l'altra cosa affascinante, essendo una cosa in cui lui si è cimentato da pochissimo, il colore veramente lo vedi migliorare di tavola in tavola, di settimana in settimana vedi sempre meglio. Quindi aspettate andate a vedere anche le 20 pagine successive a questo, perché mille colori a disposizione del progetto. Ok, grazie. Terza canzone, perché diventa sempre devo restringere gli spazi, perché c'è tanto da dire e poi sembra sempre un'ora. Vedi, si parlava del tanto testo, capisci? Esatto. La terza canzone abbiamo pescato dal titolo e adesso non sappiamo, perché Silvano è un grande appassionato dei Beatles. Ho preso Tomorrow Never Knows perché mi divertiva l'idea di anche del titolo, è un pezzo psichedelico eccetera, però l'abbiamo trovato di Bruce Springsteen. Esatto, psichedelia e fantascienza. Sì, sì. Non sappiamo adesso se è una cover di Bruce Springsteen di Tomorrow Never Knows o se è un altro pezzo che si chiama Tomorrow Never Knows. Adesso lo scopriamo. Bene. A sorpresa. Come... You and me, we've been standing here, my dear, waiting for our time to come. Where the green grass grows, tomorrow never knows. In the field your long hair flows, down by the tailed and bivy tracks, beneath the water town. I carried you on my back, over the rusted spikes of that high. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E ringraziamo Alessandro che è giustamente il ninja della regia, quindi faceva finta di essere distratto, ma ha colto al volo, come sempre, alla fine della canzone, che non era Tomorrow Never Knows dei Beatles, era un Tomorrow Never Knows di Springsteen. Va bene uguale. Resta l'incognita. Resta l'incognita, la sorpresa. Uguale. Guardavamo, tornando a Il candidato ideale, che è questa recentissima pubblicazione di Paolo Ferrara come scrittore, che è un racconto confezionato bene, nel senso che è un librettino. Il libro è delizioso, io lo maneggevo, è proprio anatomico, perfetto per la mano. Sono molto molto contento del lavoro di Epica Edizioni, che ho controllato è .it, quindi www.epicaedizioni.it con la K, okay. Epica. È già uscito da qualche mese? È uscito quest'estate, sì. Intorno ad agosto. Adesso nei prossimi mesi dovrei fare qualche presentazione, piccola presentazione, okay, in giro. E vediamo un po' come sta andando. Ho ricevuto già un paio di recensioni molto molto belle, sono molto contento. Ok. Si chiacchierò fuori onda del fatto stesso che oramai è diventato un'eccezione l'editore che ti faccia cartaceo, però nel momento stesso in cui, e questo forse ci farà, passata la sbornia digitale, ci farà tornare un po' più sul cartaceo in maniera un po' più consapevole, nel momento in cui spendi dei soldi, per anche pochi, per stampare, cercherai tu editore di ragionare un po' di più su quello che pubblichi, certo, quando il digitale tende un po' di più a permettere, ma sì, mettiamo su, soffocheremo, c'è una teoria, Paolo da appassionato di fantascienza, c'è una teoria secondo cui moriremo soffocati dai dati inutili, filmini delle vacanze e cose del genere, pensi che finirà così? Nì, nel senso che c'è sempre, soprattutto la fantascienza più volte lo ha fatto, c'è sempre questa specie di fobia in tutto quello che è sul momento, cioè ci sono cose che sfuggono di mano per un momento e ovviamente tutti si preoccupano di quello che sarà il futuro, okay, mentre in realtà io sono convinto che queste cose vanno molto a cicli, quindi adesso in questo momento stiamo vivendo in un momento di esubero digitale sicuramente, in cui adesso c'è il momento del selfie, qualche anno fa c'era quello della GoPro, c'è tutta una serie di cose che comunque funzionano in maniera modereccia, cioè comunque sono una moda che avrà un suo lasso di tempo di vita che a un certo punto si esaurirà e sarà sostituito da qualcos'altro. E però linguisticamente le possibilità che aprono, 3 anni fa non avremmo pensato di poter, vedi qualcosa, lo fotografi solo per raccontare qualcosa a qualcuno, fai una foto e la mandi da smartphone subito, è qualcosa che adesso quando ti ritrovi con qualcun altro che non ha lo smartphone e dovresti mandargli una foto non puoi, e ti accorgi del limite linguistico. Sì, il cambiamento è rapidissimo, cioè le cose che adesso ci sono praticamente indispensabili, basta andare indietro di una manciata di anni, però fai fatica a dire ok, io quella manciata di anni, quella roba lì non ce l'avevo, come facevo senza? Noi arriviamo da una generazione dove non avevamo i cellulari, io da ragazzo adolescente ovviamente il mio primo cellulare del 99... Anch'io ero già adulto quando, ho avuto il mio primo cellulare, e ovviamente sono salti generazionali sempre più veloci, questo è incredibile, sì. Però anche lì se pensiamo all'utilizzo di questi linguaggi nella narrativa in senso lato, quindi cinema, letteratura eccetera, ci rendiamo anche conto del discorso che facevo prima, se pensi c'è stato un momento in cui c'è stata l'esplosione del film realizzato con la webcam, con la cosa. È stato un momento che qualunque film realizzato così erano fior di soldi al botteghino. Adesso è diventata già una rottura di scatole. Tanto da aver avuto il found footage. È anche un sottogenere. È già sparito però. Sì, quasi. Ogni tanto ancora sull'horror continua ad uscire. Stessa cosa se ci pensate il 3D. Il 3D sembrava la tecnologia del domani, ma non se lo caca più nessuno. Scusate. Anche perché. No, qui diciamo un sacco di parolacce. Era abbastanza. Personalmente lo trovavo abbastanza inutile, nel senso che pochissimi registi, Hitchcock, lo hanno utilizzato il 3D in senso realmente narrativo, cioè offrendo qualcosa di più al film. La maggior parte dei film era Gardaland, cioè io vado, faccio la giostra la prima volta, wow, al secondo film con gli occhialini mi sono già rotto le scatole. Ma infatti è stata una tecnologia inventata negli anni 50, appunto. Anche Hitchcock appunto ha fatto il suo bel film in 3D e poi riscoperta dopo 30 anni, perché comunque effettivamente si era esaurita, si esaurirà anche comunque questo. Ormai si è già esaurita. Cioè ci sono un sacco di problemi con i cinema che si sono attrezzati, hanno speso un sacco di soldi che adesso non riescono a far rientrare perché certo. I film in 3D ormai non... Però Silvano, un parere tecnico, sì. Tu illustri anche in 3D, giusto? Io sì, faccio anche, ho fatto una serie di lavori modellati in 3D, 3D inteso con questi software, tanto per far capire, per realizzare modelli che sembrano quelli della Pixar oppure quelli degli effetti speciali, eccetera. È radicalmente diverso l'approccio? Assolutamente sì. Fine, sì, è più simile alla scultura che al disegno. Okay. Ovviamente il fatto di disegnare mi aiuta per un discorso di proporzioni, per sapere ottenere quello che ho in mente. Però è proprio un media completamente differente. È divertente, i risultati sono assolutamente entusiasmanti per alcune cose. Ha un limite fortissimo. Il lavorare da solo nella modellazione 3D ti porta a un impiego di tempo spaventoso. Per fare una bella illustrazione ci metti 20 volte quello che ci metteresti a fare un bel disegno, magari dipinto, magari in digitale, sempre per risparmiare sul tempo. Però... è probabilmente difficile anche mantenere la concentrazione, riuscire a vedere quello che stai facendo senza che sia frustrante. Sì, perché devi fare poi il rendering alla fine per vedere il risultato. Quindi è una cosa che ho fatto, io facendo il grafico anche utilizzo queste mie conoscenze sulla modellazione 3D per lavoro, quindi se devo inserire devo inserire un oggetto in un ambiente, in una fotografia, eccetera, magari me lo posso realizzare in 3D e inserirlo lì, se sono cose diciamo geometriche, semplici. Però per la mia diciamo esperienza lavorativa nel campo dell'illustrazione non sono più andato molto avanti su quel discorso, perché era proprio antieconomico, nel senso metterci un mese per fare una bellissima illustrazione non aveva senso. Poi credo che di per sé alla fine ti serve nel momento in cui devi animare, altrimenti se vuoi fare esatto. L'illustrazione digitale c'è, allora, ma non è 3D necessariamente 3D. Esatto, esattamente. Quindi per l'animazione, se uno è in un flusso di lavoro, in un team di lavoro, magari per realizzare il corto animato oppure cinema, TV, qualsiasi cosa, può essere utile sapere modellare bene, diventa una parte del lavoro, ma non puoi fare tutto da solo. È come voler fare un film completamente da solo, partendo dal montaggio, regia, musiche, attori, è impossibile. Mm-hmm. Devi avere un gruppo di lavoro che ti aiuta. Quindi sì. Sì, credo che tutto il sistema a paletti di cui parlavamo prima con Paolo della sceneggiatura nasca soprattutto all'interno di certi meccanismi produttivi, per cui c'è tutto un gruppo di lavoro. Assolutamente. La curiosità è che poi alla fine sia diventato un gioco interessante limitarsi con i paletti per rinforzare le proprie capacità narrative. Mi sembra di aver capito che ti diverti a scrivere. A me diverte tantissimo determinati schemi. A parte che è stimolante, perché comunque ti costringe a fare degli sforzi in più, perché non ti devi limitare a ok, ho avuto una bella idea, adesso me la giostro. No, hai avuto una bella idea, adesso devi far funzionare lì dentro. Okay. E quello è già una cosa interessante. Poi parlando di squadre, team, è molto diverso l'approccio di sceneggiatura, come può essere quello che fai per il fumetto rispetto a quello che fai per video, cinema, eccetera. E io realizzo, scrivo anche sceneggiature in quell'ambito, e la cosa qua nel fumetto, il lavoro riesci a sentirlo molto più tuo. Quando lavori nell'ambito, per esempio, cinematografico, diventa una cosa, un anello della catena, tra che probabilmente non riesci a controllare poi la prosecuzione. Uno non hai nessun tipo di controllo, di intervento su quello che sarà il risultato finale, cioè rispetto a quello che hai scritto tu, quello che poi ne uscirà potrebbe essere qualcosa di estremamente distante, magari anche se mantiene le stesse identiche parole, potrebbe essere qualcosa completamente diverso dalla tua visione. Perché intervengono tutta una serie di elementi, dalla recitazione alla regia, alle luci. Qui hai un rapporto vis-à-vis con, cioè anche se non è magari fisico, a volte può essere anche telematico, quello che sia, però è un rapporto quasi sempre molto diretto e molto stretto con il tuo disegnatore. È più è un lavoro, resta più autorale, mentre invece al cinema. Citatemi il nome di qualche sceneggiatore di cui ricordate il nome. normalmente il film alla fine viene firmato dal regista, appunto. Alan Sorkin, viene in mente. Cioè, uno te ne ricordi 3-4 sì, sì, no, al ma massimo. Assolutamente lo non sceneggiatore sono... scompare, diventa un operaio, sì, per, sono... al di là della sua capacità. È raro artistica. Che uno sceneggiatore tipo Lawrence Kasdan, mi viene in mente, sono due o tre che diventano star per il fatto di aver scritto, non so, Puzo, Mario Puzo, sì. Il Padrino, il primo Superman, però sono pochissimi. Sono ma veramente... alcuni diventano poi registi alla fine. È vero. Lawrence Kasdan poi è diventato regista. David Koepp poi è diventato regista. David Koepp mi pare avesse scritto il primo Jurassic Park, sì, aveva scritto la terza stesura del primo Jurassic Park, perché sì. La Spielberg non andava bene la versione di Crichton, non andava bene la seconda, no, forse vabbè, comunque una delle versioni di Jurassic Park era di David Koepp. Probabilmente hanno una personalità talmente forte che vogliono poi intervenire a livello completamente autoriale, esatto. per quello poi riguardare anche lì dipende film. Anche dal mercato di cui parliamo, esatto, quello americano, sì. Soprattutto diverso. Quello mainstream dei blockbuster eccetera, un film può arrivare ad avere anche 10 sceneggiatori, esatto. Che vengono sì. Cambiati, poi la sceneggiatura non è mai definitiva, nel esatto. Senso che durante le riprese qualunque capriccio che può essere dal regista all'attore può richiedere di intervenire nuovamente su una sceneggiatura. E poi lì ci sarebbe da dire, apriremo un altro spalancheremo un altro armadio, portone o cancello nel dire che oramai tutta la scrittura dei blockbuster, dei film di supereroi è serializzata in una maniera per cui è totalmente convenzionale. Cioè sì. Vive all'interno di certi paletti e non ha più niente a che fare con il resto delle miliardi di modalità con cui potresti scrivere una storia. Certo. Anche se devo dire che in questo il lavoro che stanno facendo dietro il Cinematic Marvel Universe, cioè tutte le creazioni cinematografiche e adesso televisive che stanno realizzando per i personaggi Marvel, c'è un lavoro veramente veramente notevole, cioè tutti i collegamenti, i rapporti, le relazioni che stanno costruendo, oltre al fatto che man mano che andiamo avanti la qualità sia dei film che delle serie TV si sta alzando tantissimo, stanno facendo veramente un lavoro di continuity completamente inedito per il cinema. Esatto, probabilmente. Perché per quel media la continuity, così come eravamo abituati noi, soprattutto negli anni 70-80, la continuity Marvel, certo. Che era un grande spettro, sono riusciti a creare una cosa originale che funziona e soprattutto che funziona per il pubblico, che è la sfida più grossa. Diventa il più grande unicum cinematografico che è sì. Mai esistito finora. Vedremo. Nonostante come... poi i singoli prodotti continuino a riuscire a essere fruibili a sé stanti. Anche per pubblici diversi, perché Daredevil, sì. Anche se allude alla distruzione di New York in Avengers, no, ha tutto un'altra stile, un'altra qualità di scrittura in positivo che. Ma il prossimo oggetto di questo tipo di serializzazione, come va accennato, è Star Wars. Esatto. Domanda di chiusura, uno dei due, prima Silvano poi Paolo. Sì. E quanto avete paura di Episodio 7, che uscirà il 16 dicembre, mi pare? Allora, io ho una grande fiducia, perché spero... Allora, adesso, il povero Lucas, poverino, è stato bombardato da insulti negli ultimi mesi e anni, da Jar Jar Binks in poi. Però... peggio di così non credo si possa fare. Sì. Allora io amo tantissimo J.J. Abrams, gli voglio bene, sono un grande fan di Lost, di Alias persino, quindi mi sono piaciuti i suoi due Star Trek e ho grosse aspettative. Credo sarà un enorme strizzatone d'occhio per i fans, sì. Questo sarà forse il limite, però non credo sarà una cosa che lascerà, diciamo, delusi. Al massimo potrà avere un gusto un po' troppo disneyano, un po' troppo ripulito per piacere a un pubblico molto ampio, però credo sarà uno spettacolo, anche perché c'è un hype spaventoso, quindi ho visto queste scene di divisioni del trailer veramente inquietanti, gente che piangeva, insomma ci spero molto, spero che sia una bella trilogia. Io sono un pochino terrorizzato nel senso che sono sicuro per quanto riguarda il lato spettacolarità che J.J. Abrams farà una cosa fantastica, perché lo ha dimostrato ampiamente. Sono da scrittore un po' più preoccupato sul fronte narrativo, perché seppure per esempio i due film di Star Trek di Abrams mi sono molto piaciuti, devo dire che ha un po' svuotato quella che era la sostanza reale di Star Trek, cioè sono il primo di più. Cioè più bello secondo me, il secondo già più debole, sono molto due bei film d'avventura, ma Star Trek non era semplicemente una serie di avventura, ma aveva tutto un impianto filosofico di un certo tipo. Positivista della scoperta, c'è cioè tutta una serie di cose che non ci sono più. Esattamente, ma anche perché solo il messaggio, cioè ogni episodio aveva un messaggio soprattutto una domanda, più che un messaggio, più che una cosa di didascalica, una morale, aveva la necessità di fare una riflessione su qualcosa che aveva a che fare con l'uomo, con l'essere umano. Questa cosa nei film di Abrams è completamente annullata. Non so che cosa possa fare in Star Wars, che però da questo punto di vista parte da un'asticella più bassa, nel senso che Star Wars è il canone classico del viaggio dell'eroe, quindi è sempre stato avventura pura, non c'era questo magma sotto. Però Star Wars ha dentro, e l'ho ripassato, ho dovuto scrivere un articolo questa settimana per dello science fiction, ha due messaggi sicuramente: uno di non violenza, perché Luke Skywalker rifiuta la violenza, e numero due di uguaglianza galattica. Assolutamente. E vedremo se questi li tiene. Non lo so, io queste sono cose politiche che arrivano comunque dall'utopia degli anni 60, certo, eccetera. E io questo è il mio timore. Il timore è che J.J. Abrams di queste cose si curi proprio. Cioè, non gli frega niente, detta come l'ha detta. Lui è interessato a fare un buon prodotto. Ripeto, tu citavi prima Lost. Per esempio, Lost è un altro esempio dove l'obiettivo, ne parlavamo all'inizio, una delle cose che mi piaceva, l'obiettivo era il colpo di scena. Il problema è che per loro il colpo di scena era così importante anche da sacrificare la credibilità della propria storia. L'importante era fare un colpo di scena, bam! Se poi questo minava completamente la struttura narrativa che io avevo costruito, non me ne frega niente, perché io dovevo arrivare a quel risultato lì. Ecco, questo approccio non mi ha mai fatto impazzire di Abrams, e su questi film di fantascienza non è più solo il colpo di scena, ma per lui è la spettacolarità. Quindi per lui spettacolarità vince su sostanza, e a me sta cosa mi spaventa. Vabbè, un po'. Vedremo. E volevo fare una puntata speciale su Star Wars, poi in realtà pezzettini qua e là con tutti finisco per parlare di Star Wars, quindi di per sé poi facciamo il rimonto dei pezzi, i finali di tutti i pezzi delle varie puntate in cui parliamo di Star Wars, e poi facciamo lo speciale, non lo so. Bene così, è stato un piacere avervi qua, Sono Solo Nuvolette, Paolo Silvano. Grazie a tutti. Richiamiamo per chi si fosse sintonizzato solo ora, che fa molto radio tradizionale, però ricordiamo il vostro appuntamento questo allora, fine settimana. L'appuntamento è presso la fumetteria Sturiellette, sabato alle 16, via di Nanni 80 dovrebbe essere, qui a Torino. Faremo appunto, presenteremo l'albo, firme e disegni per tutti. C'è anche un altro piccolo progetto che è in chiusura, che è l'albo l'artbook di German, che è su Kickstarter, sta per scadere nei prossimi giorni. Dategli un'occhiata, basta andare sul sito makemodels.com, scritto make come si pronuncia, quindi CHE, oppure sulla pagina Facebook di Evo Z, che sarebbe Evo Z makemodels.com, qualcosa del genere. Ok, comunque l'ho trovato. Andate a vedere, perché il progetto dell'artbook è presenta un po' tutta la carriera artistica di German, ma tra le altre cose offre anche dei tutorial per poter realizzare vostre creazioni, anche come dicevamo prima, con materiali di recupero. Esatto, ok, molto interessante. Avete coordinate spazio-temporali, abbiamo suggerito molti spunti di cose da andare a vedere e approfondire, c'è un appuntamento all'orizzonte. Adesso dobbiamo chiudere, abbiamo sforato di 7 minuti, stiamo per essere vaporizzati automaticamente da Radio Archimede, che ha meccanismi di difesa al di là della fantascienza. Abbiamo parlato di fantascienza, Sono Solo Nuvolette, da appuntamento la prossima settimana, che la forza sia con noi, direi. Grazie ancora a tutti, ciao. Grazie, ciao.